Bellissima chitarra di Brian May, anche questo sabato siamo arrivati 22 di giugno 2013 e fa caldo, si sta benissimo finalmente dopo un po' di tempo con la pioggia e già un paio di settimane che si sta veramente bene. Noi siamo, questo è Movieland, io sono Emanuele e insieme siamo la radio al cinema o il cinema alla radio, meglio detto. Quindi ragazzi, siamo qui un'altra settimana carichi di novità e con le pile ben cariche, come possiamo sentire dalla prima canzone, Princess of the Universe dei Queen, tratto da Highlander del 1986. Volevo fare appunto dei saluti a tutti gli ascoltatori e volevo darvi un po' il sommario di quello che parleremo oggi. Oggi parleremo di Hitchcock, parleremo di Tulpa, il film in uscita, avremo l'intervista con Claudia Gerini e con Zampaglione, parleremo dell'Uomo d'Acciaio, parleremo di tante altre cose, quindi ragazzi mi raccomando rimanete all'ascolto, non andate. Bene, andiamo con la prossima canzone che è anche questa un grandissimo classico, eccola qua. Ah, chi se la ricorda? Bryan Adams, Everything I Do It For You. Questo è da Robin Hood del 1991. Buon ascolto su Web Radio Network. Look into my eyes, you will see. True. Every- everything I do, I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not. Everything I do, I do it for you. Bryan Adams, abbiamo continuato in romanticismo. Io volevo fare un appello a tutti quegli ascoltatori che appunto ascoltano Movieland e che sono appunto esigenti. Io mi piace avere ascoltatori esigenti. Mi hanno detto che metto canzoni troppo vecchie e che non le faccio ascoltare, quindi cercherò di farle ascoltare fino alla fine e cercherò anche di mettere delle canzoni un po' più nuove degli ultimi mesi. Anzi, ringrazio Sara per la selezione musicale di questa settimana, che è fatta veramente bene. Vi avevo detto che parlavamo di Hitchcock, infatti a Milano arriva Hitchcock e Palazzo Reale si tinge di giallo. Mille sfumature di giallo colorano da ieri gli austeri saloni di Palazzo Reale, un profondo giallo firmato Alfred Hitchcock, protagonista di una mostra audiofotografica che consentirà di svelare anche il temperamento nascosto del maestro del brivido e il dietro le quinte dei suoi film cult, da Intrigo internazionale alla donna che visse due volte. Una galleria di 60 spaventose immagini scattate durante le riprese di pellicole che hanno terrorizzato generazioni di spettatori, dai fotografi di scena e raccolte sotto il titolo Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures. La mostra è in cartellone da ieri 22 settembre, no, da ieri al 22 settembre, scusateci, ed è aperta dalle 9.30 alle 19.30, lunedì dalle 14.30 alle 19.30, il giovedì e sabato con orario allungato 9.30-22.30. Il prezzo del biglietto intero è di solo 8 euro. Secondo me merita veramente andarlo a vedere. E eccoci qua con Antonella Lococo, Nuda, pura, vera. Buon ascolto. Non lo so dov'è che andrò, ma di certo non resto a fingere una parte felice che alla fine non sono posto con me. Sono cresciuta e lo so che Radio Network. Davvero speciale stasera. È contro le regole. Buongiorno. Buongiorno. Il consiglio ha preso la decisione. Qualcuno dovrà andare via. Ma quella cenetta? Io la sera lavoro sempre fino a tardi. Ho scoperto che frequenta un posto molto sospetto. Ho scattato delle foto. Qualcuno che conosci? Due donne e un uomo sono stati ammazzati. E io sono stata con tutti loro. Erano membri del Tulpa. È scritto che sono in grave pericolo. Perché? Marla è morta. L'hanno trovata con le vene tagliate. Era proprio dove eri tu. Vattene via da qui. Forse sei in pericolo anche tu. Uscito nelle sale giovedì, un bellissimo film thriller giallo di cui è protagonista una bellissima attrice italiana, Claudia Gerini, che abbiamo l'onore di ospitare in Movieland. Ciao Claudia! Ciao a tutti, ciao agli amici di Movieland, sono molto contenta di parlare con voi, eccomi qua. Vi racconto un po' di Tulpa. Tulpa è la storia di Lisa Boeri, che sono io, sì, che è una donna manager, è una donna che lavora nella finanza in una banca internazionale, e è una donna sola e la sera frequenta un privé dove si, diciamo così, molto esclusivo, è un club molto esclusivo dove si fanno incontri sessuali. Mm-hmm. Lei e si chiama Tulpa, ecco il titolo del film, il privé, il nome di questo club, certo, è Tulpa. Intorno a questo privé iniziano a succedere alcuni omicidi. Lei scopre che praticamente le persone, i suoi amanti, vengono brutalmente uccisi. Questa è un po' la trama. Lei ovviamente è braccata dal grande terrore, perché c'è un assassino che si muove intorno a lei e non può andare alla polizia, vista la sua, ovviamente, sua posizione. Sarebbe un po' uno scandalo che se venisse, certo, fuori questa sua frequentazione, per cui cerca un pochino di indagare da sola e di avvertire le persone che sono dei probabili nuovi vittime. E basta, no, questa era la trama. Se no non vi svelo tutto, vi racconto tutto, certo, il film, certo, non no, vale no, la pena. Meglio di no, anche perché stasera devono andare tutti in massa a vederlo. Quindi parliamo di cinema di genere, in questo caso giallo, thriller, horror, un genere che in Italia ha avuto il suo momento d'oro, che però piano piano si è spento. Invece adesso sembra che qualcuno si stia svegliando un attimo. Ci sono riaccendendo. Sì, gli orfani del giallo all'italiana finalmente torna un po' di giallo all'italiana. Beh sì, se pensi ai grandi, al Splendori d'Argento, Lucio Fulci, certo, Mario Bava, insomma l'Italia è stata maestra di questi film. Poi a un certo punto si sono un po' persi e Federico Zampaglione, il mio compagno, certo, che ha diretto il film, da grandissimo fan, da grande seguace di questo film, voleva proprio riportare in Italia questo genere. È sicuramente un film abbastanza estremo, perché raccontiamo, insomma, sai, giallo è un genere sicuramente molto, molto forte, ci sono appunto questi, diciamo, di omicidi, anche c'è anche un po' di follia in mezzo, perché l'assassino in genere è uno psicotico che non, certo, uccide tanto, uccide anche, insomma, così, con dei riti abbastanza macabri. Comunque una storia sicuramente interessante e a mio avviso molto ben girata si avvale di attori oltre a me, c'è cioè Michele Placido, Michele Cescon, certo. Quindi insomma un bellissimo cast, e condito con un bel po' di piccante, perché comunque ci sono delle scene belle, diciamo così, abbastanza hot. C'è stata qualche scena, c'è stata qualche scena più difficile da girare rispetto ad altre? Ma guarda, è stato sicuramente un film divertente tra virgolette, nel senso che abbiamo girato alcune scene d'azione, alcune fughe, alcuni inseguimenti, corse, ovviamente i momenti un pochino, diciamo così, sicuramente di imbarazzo erano i momenti dentro al club privé, perché certo. Facevamo insomma ci sono scene, voglio dire, di sesso, per cui alcune scene di nudo, però all'inizio ovviamente, anche se io sono un'attrice che ha fatto tanti film, ho la mia esperienza, però i 10 minuti di imbarazzo, poi dopo pian piano sul set i tecnici e tutti quanti, diventa una scena come un'altra, per cui certo. Poi il fatto che fosse proprio il mio compagno a girarle, questo mi dava molta sicurezza, devo dire, invece di imbarazzarmi mi ha facilitato. Ovviamente sono scene simulate, per cui l'importante insomma ecco, sentirsi a proprio agio e cercare di in qualche modo di divertirsi, ecco. Naturalmente, perché un film del genere possa uscire, c'è bisogno di un produttore illuminato e di un distributore illuminato. Voi avete trovato le due cose? Siamo stati fortunati, perché il produttore sì, è sicuramente la IDF, che è la produzione di Maria Grazia Cucinotta, insieme a me e a Federico abbiamo messo insieme questo budget. Ovviamente è un film a basso costo, però ti assicuro che quando lo vai a vedere sembra un grande film, certo. Diciamo mainstream, non è assolutamente, non vedi assolutamente che ci sia stato insomma un budget più ridotto, certo. E sì, anche il distributore ha creduto molto nel film, anche perché questo è un periodo in cui escono alcuni horror, alcuni gialli, e poi diciamo la verità, insomma, la gente ha voglia, gli appassionati, certo, hanno voglia di confrontarsi, no, con queste emozioni, questa paura che è un po' un'eccitazione per esorcizzare poi, no, le vere paure della vita, ecco, quindi sicuramente abbiamo il nostro seguito. Il film è stato girato in inglese per il mercato internazionale, giusto? Sì, infatti la versione diciamo originale è una versione girata in inglese, come si faceva poi ai tempi di appunto Argento eccetera, proprio perché è stato venduto già in tanti paesi. In quali paesi uscirà? Ma addirittura guarda, molti paesi dell'est, adesso invece in Europa sta arrivando adesso, per cui ci sono i vari mercati di film, che chissà, magari arriveremo anche negli Stati Uniti, non lo so. Quindi hai messo in atto quello che un po' di anni fa dicevi in un film di Verdone, Famolo Strano. Strano, esattamente. È abbastanza strano. Noi ringraziamo Claudia Gerini per essere stata con noi a Movieland. Un saluto a Claudia Gerini, ciao e grazie. Grazie, grazie a voi. Rimani qui, scende la sera, sopra di noi si poserà, e aspetteremo così la primavera, solo se vuoi ci troverà. Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono, ma ora so, è amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi, chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Rimani qui, non sei da sola, se partirai ti seguirò, e ce ne andremo così, senza paura, tempo per noi si troverà. Mi perdo dentro ai tuoi sogni che mi avvolgono, ma ora so, è amore impossibile quello che mi chiedi, sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi, chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima. Chiudere la realtà dentro la tua isola, ma non perdere la voglia di volare, perché l'amore è amore impossibile a inseguire l'irraggiungibile senso di libertà, oltre le stelle e il cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima. Parliamo con il regista, che è Federico Zampaglione. Il film naturalmente è Tulpa. Si è fatto un gran parlare di questo film, ne hanno scritto tutti, ti hanno definito come l'erede del cinema di genere italiano. Come ti senti in questa definizione? Ma no, ma insomma queste poi sono cose della stampa, esagerazioni, cose. Io sto semplicemente cercando di esprimermi in un genere che ho sempre amato. Insomma, poi dopo queste sono cose più che altro che vengono fatte ad hoc per gigantire, per pubblicizzare. Insomma, io ho fatto soltanto 3 film nella mia carriera e mi sembrerebbe un po' presto ancora per dire queste cose. Beh, comunque te la cavi bene, viste le critiche. Anche il film comunque ha partecipato a tanti festival, questo Tulpa, ma anche il tuo precedente Shadow, no? Diciamo, c'è una buona diffusione anche internazionale. Sì, all'estero sono film che stanno andando, che girano molto nei festival, sono stati distribuiti. Adesso, insomma, vediamo come andrà in Italia. Sappiamo che è un mercato un po' più ostico, purtroppo. L'Italia, purtroppo, sì, è un mercato un po' più ostico. Insomma, è un genere che magari in Italia è stato un po' messo da parte, si punta più su altri tipi di film, e vediamo un po' adesso quali saranno i risultati. Allora, vediamo, ragazzi, andatevela a vedere. La storia l'hai scritta tu insieme a Dardano Sacchetti, a uno degli sceneggiatori di punta dei film del periodo d'oro di Dario Argento. Beh, diciamo che lui sicuramente è uno che ha scritto tanto, soprattutto per Lucio Fulci. Avere però la collaborazione con lui è stato importante, perché lui, diciamo, su certe atmosfere un po' horror, certo, un po' così, è molto bravo. Il film abbiamo visto che è stato girato, diciamo, relativamente a low budget, no? Con tecnologie digitali. Sì, sì. Spiegaci un po' la parte tecnica. Beh, è un film che è stato fatto comunque con una Canon 5D, mm-hmm, che è una macchina la presa, insomma, molto piccola, però efficace, e quindi è un film, insomma, dove però, pur non essendo un grande budget, abbiamo cercato di non far mancare nulla in termini di scenografie, di effetti speciali. Poi c'è tutto quello che ci deve essere, c'è un bel cast, ci sono delle belle location. Questa cosa che siamo riusciti a contenere i costi, però non incide sulla qualità, certo. No. Il film è stato girato all'EUR per il contrasto che c'è dell'EUR tra il giorno e la notte, praticamente. E infatti, sì, queste geometrie molto particolari che di giorno, appunto, sembrano quasi un luogo astratto, e poi però la notte diventano molto inquietanti. Il film è stato girato in italiano o in inglese? È stato girato in inglese e poi ridoppiato in italiano. Sì, si fa fatica a trovare una distribuzione per questo tipo di film in Italia? Un pochino devi lottare. La Bolero è stata eroica, che ha scelto, appunto, di distribuirlo. Com'è stato il rapporto di lavoro con tua moglie, con Claudia? Beh, lavorare con lei è sempre un piacere, perché comunque è un'attrice duttile, versatile, che ama il suo lavoro e che ti dà il massimo poi sul set per raggiungere il risultato. Quindi è un'attrice che ti stimola, che ti dà degli spunti, delle idee forte. Però il confronto poi con gli attori è sempre una fase importante, perché certo. Tu puoi decidere a tavolino le cose, ma poi le devi rendere credibili, certo. E a volte averci, come dire, un buon accordo e un dialogo importante con un attore ti cambia tutto. E per quanto riguarda, diciamo, la casistica spicciola, no? Io ho visto che Nero bifamiliare è uscito nel 2007, Shadow è uscito nel 2010 e Tulpa nel 2013. 3 anni di distanza da un film all'altro. Ce ne possiamo aspettare un altro per il 2016? Beh, questo io non lo so, perché chi lo sa, è presto per dirlo. Ringraziamo quindi Federico Zampaglione, regista di Tulpa. Mi raccomando, tutti gli ascoltatori, andatelo a vedere. Un saluto, grazie Federico. Ok, ciao a tutti, ciao. I grandissimi Beatles che ci arrivano dalla colonna sonora del film Bronx, girato nel 1993. Prima ci siamo ascoltati Antonella Lococo con Nuda Pura Vera, da Ci vuole un fisico, film del 2012 con Angela Finocchiaro, scusatemi, divertentissimo. Dopo ancora i Tiro Mancino con L'amore impossibile, un videoclip molto carino girato dal regista Mario Bava per appunto Zampaglione, che vedeva anche la Gerini come protagonista di questo videoclip. Benissimo, noi continuiamo perché ci bussa alla porta, secondo me, io credo che è un supereroe, l'ho visto volare prima fuori dalla finestra, non sarà mica Superman per caso, no? Riesci a immaginare come reagirebbe la gente su questo pianeta se sapesse che c'è qualcuno così in giro. Un giorno dovrai fare una scelta. Dovrai decidere se mostrarti con orgoglio alla razza umana oppure no. L'uomo d'acciaio, dal 20 giugno al cinema. È arrivato anche questa settimana il momento del nostro collegamento con FilmUp, il miglior portale cinematografico in Italia, filmup.com. È con noi, come tutte le settimane, Erika Melis. Ciao Emanuele. Abbiamo un lutto in famiglia, no? Cos'è successo? Sì, sì, purtroppo, tra l'altro è un lutto hollywoodiano che però è avvenuto qui a Roma, qui in Italia, è veramente una triste notizia che ha colpito moltissimo gli spettatori, perché si tratta di un attore molto amato, James Gandolfini, che ha prestato il suo volto a Tony Soprano nell'omonima serie televisiva famosissima. È stato colpito da un infarto nella notte tra mercoledì e giovedì e purtroppo non c'è stato niente da fare. Tra l'altro era giovanissimo, aveva appena 51 anni, era in Italia per partecipare tra l'altro a una bellissima iniziativa, doveva prendere parte al Taormina Film Festival, dove avrebbe ricevuto un premio, avrebbe incontrato anche il pubblico. È stato veramente un fulmine a ciel sereno che ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, anche gli altri attori che in questi momenti stanno esprimendo le loro condoglianze. E al Taormina Film Festival, visto che sono rimasti senza ospite, organizzano un omaggio a James Gandolfini. Sì, un omaggio che si terrà il giorno in cui lui avrebbe dovuto partecipare, l'ultimo giorno del festival. Sicuramente sarà un bellissimo omaggio a un grande interprete, a una persona anche nella vita privata molto schiva, modesta e veramente valente, ecco. Benissimo, un saluto a James Gandolfini, e però dobbiamo parlare dei film in sala. Sì, questo è un argomento più leggero decisamente, sì. Anche questa settimana arrivano tanti film, di cui segnaliamo sicuramente L'ultima fatica di Marco Risi, un thriller che si intitola Cha Cha Cha e ha per protagonista Luca Argentero in splendida forma, e ti assicuro che sicuramente delizierà le spettatrici femminili, perché farà una scena di lotta completamente nudo, per cui penso ci sarà molto interesse verso il film. Un altro interessante prodotto è Passione e Desideri, un film drammatico che ha un cast stellare con premi Oscar e che esamina dinamiche sessuali tra persone appartenenti a differenti ceti sociali. Infine, il film più atteso della settimana è sicuramente L'Uomo d'Acciaio, reboot dedicato al personaggio della DC Comics Superman, che tutti conosciamo e moltissimi amiamo, penso. Certo. Ed è praticamente una pellicola che vede l'arrivo di Kal-El sulla Terra, dove poi tutti sappiamo cresce come Clark Kent e diventa adulto. Dietro la macchina da presa troviamo lo stesso regista di 300, Snyder, mentre nei panni di Superman abbiamo una novità, si chiama Henry Cavill, un attore giovane e promettente, insomma vediamo come se la caverà. Ne sono previsti più di uno di film di Superman? Sicuramente, visto il successo, ci saranno dei sequel, perché comunque in America ha già incassato più di 113 milioni di dollari e ha conquistato la vetta nella classifica, perché è uscito la settimana scorsa. L'Uomo d'Acciaio quindi è campione di incassi nel botteghino USA. Sei, per quello italiano come siamo messi? Per quello italiano in primissima posizione troviamo il nuovo di Star Trek Into Darkness, che è in vetta alla classifica, però sinceramente con un guadagno abbastanza basso, perché non raggiunge neanche 900.000 euro. Probabilmente è complice il primo caldo, appunto, il mare è stato una meta preferita. È seguito da After Earth e Una notte da leoni, che comunque hanno incassato cifre non troppo dissimili da quella della prima posizione. Benissimo, perfetto. Quindi questo è il botteghino. Noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad andare al cinema questo fine settimana, perché al mare ci si va di giorno, al cinema ci si può andare anche di sera. Quindi non ci sono scuse. Nei cinema adesso c'è l'aria condizionata, quindi andate in tantissimi al cinema. Abbiamo L'Uomo d'Acciaio, Cia Cia Cia, Passione e Desideri, esce Tulpa, anzi è già uscito, ci sono tantissimi film che meritano di essere visti. Noi mi associo al tuo invito. Benissimo, noi ringraziamo Erika Melis che ancora una settimana è stata con noi. Vi ricordo il miglior portale di cinema in Italia, che è FilmUp, www.filmup.com, e che collabora naturalmente con Movieland. Ti ringrazio Erika, buona settimana, ci sentiamo alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Pride and the Pimptones, Waiting So Long featuring Jess Roberts. Questa era una bella canzone, sentite che ritmo, che ritmo nel sabato pomeriggio di Web Radio Network con Movieland. Chi ve lo dà, chi ve lo dà? Questo era tratto da Lezioni di Cioccolato 2, un film del 2011. Vi avevo promesso canzoni da film più recenti e mi sembra di avere appunto ottemperato alla mia promessa. Vogliamo parlare di Iron Man? No, vabbè, è uscito un po' di tempo fa, non è una notizia fresca. Parlo di Iron Man perché la HTC lo assume. Ma come, in che senso? HTC ha iniziato seriamente a combattere contro la concorrenza nel mercato smartphone con il lancio di HTC One e ora l'azienda di Taiwan sta cercando di continuare a migliorare le vendite del suo top di gamma, intensificando la campagna di marketing, come con l'assunzione di Iron Man stesso, o meglio, l'attore che lo interpreta, Robert Downey Jr., il quale sarà il volto per la promozione dei telefoni HTC. Robert Downey Jr. infatti ha firmato un contratto della durata di 2 anni, concluso per la modica cifra, per la modica somma di 12 milioni di dollari. È una mossa coraggiosa da HTC, che ha riferito di avere a disposizione solo un decimo del budget per il marketing che per esempio ha la principale rivale Samsung, che invece appunto ne ha 10 volte tanto a disposizione. Quindi vediamo se Iron Man riesce a spaccare tutto e a spaccare anche appunto la cassa, le vendite della HTC. Ma noi vogliamo continuare perché siamo arrivati a un punto che ci interessa continuare, giustamente. Mancano 20 minuti, ancora per 20 minuti possiamo ascoltare un po' di musica insieme a Emanuele fino alle 19 su Web Radio Network. Questo è Movieland, ogni sabato dalle 18 alle 19. Mi raccomando, non ve lo dimenticate mai. Buon ascolto ancora una volta. Alabama Shakes, questi con Always Alright dal film Il Lato Positivo del 2012. E come consuetudine a Movieland parliamo di cinema indipendente, cinema autoprodotto, ma in questo caso stiamo parlando del film Good Night Sofia, girato nell'estate del 2011 da due ragazzi di Spoleto. Praticamente questi ragazzi hanno girato il film e poi la distribuzione, quello che viene dopo chiaramente del film, è stata fatta utilizzando la licenza Creative Commons in una maniera interessante, innovativa e particolare. Abbiamo in linea Leonardo. Ciao Leonardo. Ciao, ciao Emanuele. Buona serata, raccontaci appunto l'iter che ha seguito il film. Sì, il film appunto è stato autoprodotto, come hai detto, da me e da Lorenzo. Abbiamo girato con una piccola troupe a Sofia nell'estate del 2011, ma appunto il discorso della distribuzione è stato un discorso anche lì di autodistribuzione di licenze Creative Commons, perché abbiamo voluto così iniziare questa avventura e questa piccola distribuzione alternativa utilizzando queste licenze, perché ci permettevano e ci permettono una maggiore libertà e soprattutto permettono al pubblico di organizzare delle piccole proiezioni intime, come sta succedendo sia in Italia sia in tutto il mondo. Di che cosa parla il film? Qual è stata, diciamo, la genesi narrativa del lavoro e come mai siete andati a girarlo in Bulgaria? Allora, il film appunto parte da dopo appunto la morte di mio padre, e quindi c'è un riferimento autobiografico in questo, e poi okay. Perché io mi trovavo a Sofia quando appunto ho ricevuto una delle sue ultime telefonate, appunto c'è un discorso legato a questo ricordo. Io sono voluto tornare a Sofia per questo momento. La storia molto semplicemente è quella di una ragazza appunto colpita da un grave lutto, che torna appunto in questa città per cercare la voce di suo padre. Il film è un impianto sia astratto che sperimentale, vengono utilizzate anche delle immagini di archivio, e quindi è questa ricerca, poi una ricerca impossibile di questa voce, ecco. Naturalmente siamo anche insieme a Lorenzo. Lorenzo e Leonardo sono collegati tutti e due, e a Lorenzo volevo chiedergli, ma quindi è stato proprio un lavoro di cinema totalmente indipendente, avete speso un budget irrisorio, diciamo. Come ha funzionato tutto l'impianto produttivo? Allora, l'impianto produttivo è partito anzitutto, diciamo, dall'acquisto dei mezzi che ci occorrevano per girare e poi, diciamo, montare il film e poi di conseguenza distribuirlo, insomma tutto quello che occorreva per far girare il film, appunto, come poi dopo ha spiegato Leonardo prima. Abbiamo ingaggiato questa ragazza, Lucia Telori, un'attrice che per la prima volta andava sullo schermo, ha fatto il viaggio con noi, ha attraversato appunto questi paesi con noi, siamo andati in macchina, quindi si sono aggiunti anche dei costi appunto di viaggio. Certo. È stato un film un po' on the road, on the road. Passiamo alla parte più interessante. Voi come lo distribuite questo film? Allora, cerchiamo dei contatti, facciamo un DVD, scriviamo e se appunto i contatti accettano, il film viene proiettato. È un po' come aveva già detto in precedenza Leonardo, il pubblico che, diciamo, crea la proiezione. Interessante. E in quante sale, in quanti punti, in quanti posti è già stato proiettato il film? Allora, diciamo che all'incirca è stato proiettato in una ventina di paesi, in varie sale cinematografiche, ad esempio a Sarajevo, e poi insomma abbiamo fatto varie tappe, ecco. Molto interessante. Che si possono comunque seguire attraverso il nostro sito internet www.goodnightsofia.net e lì c'è tutta appunto la cronologia anche, diciamo, delle varie tappe che abbiamo fatto. Ancora Leonardo, voi quando appunto vi richiedono di proiettare il film eccetera, partecipate anche a degli incontri con l'autore per farvi conoscere? Sì, non sempre, ma cerchiamo di partecipare il più possibile, soprattutto qui in Italia, qui in Europa, però altre proiezioni come in Malesia, appunto negli Stati Uniti, non siamo potuti andare, ecco. Vabbè, certo. Proiezioni un po' in tutto il mondo, in 20 paesi, il film gira dal 2012. Quali sono le prossime proiezioni in programma? Allora, per esempio, questa sera siamo a Parma, all'Arci Zerbini, una rassegna che inizia intorno alle 21, sarà proiettato il nostro film, più ci saranno, credo, un dibattito. Poi le prossime tappe, abbiamo alcuni festival in Spagna, sempre Creative Commons, a San Sebastian, e poi un altro festival in Finlandia. Aveva iniziato un po' Lorenzo a darli, se vuoi dai i riferimenti per chi fosse interessato e volesse contattarvi. Organizzare una proiezione, appunto, scriverci è semplicissimo, basta andare sul nostro sito goodnightsofia.net. se si vuole organizzare una proiezione, basta mandarci un'email e noi spediremo appunto il film nel giro di pochi giorni tramite mail. Benissimo, noi allora ringraziamo Leonardo Moro e Lorenzo Robusti che con il loro film Good Night Sofia sono stati insieme a noi in questo pomeriggio. Li salutiamo e gli facciamo in bocca al lupo. Ciao ragazzi. Ciao, grazie mille. Ciao. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Ti sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane. senti questa voce, canta il mio cuore. Ho preso la chitarra e suono per te. Amore, amore, amore. Il rumore, loro ne sono attratti. Li attira. Hai già avuto a che fare con loro? Philadelphia, Newark. Male. Arrivano. E Houston invece? Detroit. Atlanta. C'è chi se la cava meglio di noi. Avanti! Presto, muovetevi! World War Z, da giovedì 27 giugno al cinema, in 3D. Ebbene sì, anche in 4D. Brad Pitt con questo bellissimo film sugli zombie, non viene detto chiaramente nel trailer, non viene detto in nessun comunicato, però lo sappiamo benissimo perché è tratto appunto da un libro che parla di questo. Però Brad Pitt è preoccupato perché mentre orde e grandissimo numero di persone, di zombie nel suo film attaccano tutti, lui ha paura di essere attaccato davvero. Infatti Brad Pitt annulla il viaggio a Rio per l'anteprima di World War Z a causa delle proteste in Brasile. L'attore hollywoodiano doveva partecipare al red carpet nella capitale carioca lunedì 24. Era previsto anche un incontro con i giornalisti domani sera. La redazione brasiliana di E! Online ha sentito la casa produttrice del film, la Paramount, in merito alla cancellazione dell'evento, che è stata appunto confermata. Ci è voluto un intero pomeriggio per arrivare a questa decisione, hanno detto dalla Paramount, aggiungendo che Brad Pitt aveva scelto il Brasile come l'unico paese in America Latina per promuovere il film. I giornali brasiliani lamentano la defezione della star e si chiedono se Brad Pitt verrà per i mondiali del 2014 o magari per la prossima prima del suo di un altro suo film. E chi lo può sapere? Non si sa, perché comunque Brad, insomma, un po' di strizza ce l'ha, porello, insomma, come si fa? La la la, benissimo, continuiamo. La penultima canzone, poi saluti. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, dal film Holy Motors del 2013. Oh, Approfitto di questi ultimi secondi della canzone Can't Get You Out of My Head, non posso toglierti dalla testa, di Kylie Minogue, che nel film Holy Motors, appunto nelle sale del 2013, non ha solamente cantato, ma ha fatto anche una parte nel film come attrice. Bellina Kylie Minogue, bassa, piccolina, donna nana, brava attrice praticamente. Va bene, allora io saluto tutti perché siamo arrivati alla fine purtroppo, mancano solamente 2 minuti allo scoccare delle 19. Io vi ricordo che questa sera a partire dalle 21 ci sarà il Milano Rock Festival proprio in diretta su Web Radio Network con Movieland. Invece ci vediamo la prossima, ci sentiamo, anzi non ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana il sabato naturalmente dalle 18 alle 19, sempre con Emanuele, sempre qui per parlare di cinema e con tanti nuovi ospiti. Ebbene sì, dal 1990, fatemela mettere una vecchia, dai. Dal 1990 arriva Marie Claire Dubald con The Rhythm is Magic, la colonna sonora del mio conregionale, diciamo così, Leonardo Pieraccioni, con il film Il Ciclone. Buon ascolto, a settimana prossima. Ciao ciao a tutti. Breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star dances still. Surrender.